7 e 30 minuti primi. Venghino, siori, venghino. Viene servita la colazione denominata pane, burro e rock and roll. C'è l'Ariele, c'è Spadino in regia e soprattutto Roberto Fricantoni. Mister Trombetta porta i cornetti e la mucca Camilla i croissant. 335-1-0-0-7-7-7-7, il contatto via sms. Un saluto a Ricky da Milano, che ci dà il bentornato dalle ferie. Giornataccia per Gian. Un saluto a Gibson69, con una firma così, sei il benvenuto a Rock FM. Ruggero che commenta: siete un toccasano come inizio mattinata, grazie, gentili. Mitzga: che nuovo stacco surreale, commenta Marco, buona giornata, siete dei fuori classe. Oggi siete in vena di complimenti, grazie, eh? Sono sempre apprezzatissimi i complimenti qui a Rock FM. Ricordo che oggi compie 114 anni il nostro amato Genoa Football Club, cosa che abbiamo anche ricordato nel nostro almanacco di quest'oggi. Ne approfitto per risalutare allora anche Francesco. Riprendiamo al volo con la buona musica, grazie Provetto Spadino per avermi lanciato prontamente in sottofondo gli YouTube. I will follow. Restate con noi fino alle 9. Che ce ne facciamo noi dei vostri sms quando possiamo godere di un viaggio ogni giorno diverso grazie alle centinaia di cartoline postali che tuttora stanno continuando ad arrivare. La seconda stagione di Pane, Burro e Rock and Roll si propone un nuovo obiettivo: ricopriamo Roberto Fricantoni di cartoline. Ebbene sì, amici, non sono altissimo, anzi 1,68. Questo potrebbe aiutarci. Lo sforzo, esatto, potrebbe essere alla portata di tutti. Continuiamo a segnalare e a ringraziare gli amici che hanno risposto all'appello, quest'oggi occupandoci di cartoline che arrivano dall'estero, quindi varchiamo le Alpi, le va di viaggiare insieme a noi? Ma naturalmente sì! Partiamo allora dai pub irlandesi ed è il secondo caso di cartolina identica, questo vuol dire che due radioascoltatori differenti nello stesso stato hanno scelto la stessa cartolina da spedirci, un classico collage direi di ingressi di pub irlandesi, esatto, dove esatto. Ovviamente i nostri radioascoltatori saranno andati a sbronzarsi. Irish come pub front è giusto che sia. E nello specifico andiamo a salutare Ignazio che scrive: come non rispondere prontamente ad un vostro appello, e allora brindo alla vostra salute. Grazie Ignazio. E in un post scriptum elemosina anche qualche punto per la sua potente davvero rocker, che ovviamente ha. Immediatamente, anche se lui dice non che mi serva, non che ne abbia bisogno, ma comunque me lo date un punticino per la mia patente di rocker. Ma sì Ignazio, te lo diamo, come accennato, stessa idea di Ignazio ha avuto un altro amico, Francesco, anche qui un maschietto, Francesco, che scrive, che ci spedisce la stessa cartolina dall'Irlanda e segnala quanti bei posti per poter bere due birre, senza contare che le irlandesi c'hanno due bocce da paura sul petto, cioè, tutte quante dalla seconda abbondante in su. Sì, sì, ma spieghiamo. Vuol dire, Francesco, sì, che le irlandesi hanno quest'usanza di servire le birre in, no? Bocce, in bocce larghe. Non credo, Che tengono qua davanti al petto. Lei insomma sta cercando di sviare l'evidente sessismo di questa cartolina postale, che in quanto tale comunque apprezziamo. Grazie Francesco, sì. E Morgan. Ultimi saluti vanno invece, le va di fare un giretto in Svizzera? Sì, sì. Anche se questa cartolina... Sì, soprattutto nella Valle dell'Intaglio, mi sembra che qui siano diverse... Sono delle maschere scultoree della Valle Vallis. Vallis, sono maschere decisamente inquietanti, anche la firma è inquietante, fortuna che è indirizzata a lei, ciao Frick, questo è un suo ascoltatore, sì, non un mio. Saluti svizzeri. Si firma, qua è sempre dura, Pablo da Pimosantia, qualcosa di quello. Saluti svizzeri, questi saluti svizzeri sono per lei, la se la porti pure a casa. Le vorrei far notare il francobollo. Con la classica Edelweiss, la stella alpina svizzera doc, e qui abbiamo invece sul davanti un purpurì d'intagli, ecco, che dimostra la perizia di questi artisti svizzeri dell'intaglio. Sono maschere inquietanti, a parte uno scoiattolino che è, diciamo così, il motivo più leggero, più soft, le altre sono effettivamente maschere inquietanti, e io mi aggancio alla maschera inquietante per chiudere questo spazio dedicato alle cartoline dall'estero con una cartolina che arriva da Parigi, Montmartre, da Parigi, con un gatto nero. Vede che c'è anche qui un tocco di inquietudine, il gatto nero, le chat noir. La cartolina recita: Paris, Montmartre, a Montmartre le soir, quindi la sera a Montmartre, esatto. Ci hanno preso probabilmente per artisti, capito? Probabile. Salutiamo e ringraziamo Gabriele che commenta: porterà sfortuna, ma i veri rocker non hanno questo problema. Bravo Gabriele, grazie così per la tua cartolina, piaci, da Parigi. Così ci piaci, con degli allegri francobolli francesi. Italy, Rock FM, via Locatelli 1, 20124 Milano. Continuate a salvare la cartolina postale. Yearning inside me, that's running deeper than the night. So don't go fooling with my hunger. If you can't keep me satisfied, I'm warning you, gotta have more love. I just can't get enough. Gotta have more love. I just can't get enough. Gotta have more love. I just can't get enough love. Before we go any further, I think you should know I can't get by on part of your love, babe. I've got to have it all. And it moves me stronger than the wind. So don't go fooling with my fire, 'cause you won't stop me once I begin. Climax Blues Band nella diretta di Pane, Burro e Rock and Roll. A proposito di Blues Band, ricordo che con l'inizio della prossima settimana tornerà anche il bluesman di riferimento della frequenza Rock FM, il Puma di Lambrate, che risponde al nome di Fabio Treves, tornerà nel suo spazio radiofonico di lunedì nel pomeriggio, appunto, di Rock FM. Intanto mi trasferirei a Venezia, dove qualche giorno fa è stato presentato un film, l'impressionista film I'm Not There. Questo è il titolo, sperimentalissimo omaggio che il regista Todd Haynes ha ispirato alla musica e alle tante vite di Bob Dylan. Con un super cast, ci troviamo, non so, Richard Gere, Christian Bale, alcune le star a cui il regista di Lontano dal Paradiso e Velvet Goldmine si è affidato per incarnare poliedricità e le fasi della carriera di Bob Dylan, dai primi passi nel folk fino alla conversione rock. Restavo colpito da questa presentazione. Sei le icone con cui il film si imbarca in questa ambiziosa esplorazione dell'universo artistico e umano del menestrello di Duluth: il profeta del folk, il poeta visionario, il Giuda elettrico, il divo inossidabile, il predicatore evangelico e il cowboy solitario. A incarnare la fuga dai riflettori di cui parla il titolo della canzone è nel film il Billy the Kid con il volto di Richard Gere. Bob Dylan è il vero artista delle contemporaneità, dice l'attore, intervistato al Lido insieme al regista. Più ancora di Picasso, il suo nome resterà scritto nella storia per la straordinaria influenza che ha esercitato a 360 gradi sull'arte e sullo spirito. Il buon Richard ammette anche che senza Vision of Joanna dal 67 in poi la sua vita non sarebbe stata la stessa. Che tenero, gentile da parte sua. Segnaliamo anche una colonna sonora che legherà questo film folle dedicato a Bob Dylan, I'm Not There, colonna sonora nella quale ci sono 39 brani fra versioni originali e rivisitazioni che il regista ha selezionato da un campione iniziale di oltre 90 canzoni. Le cover sono tutte riletture contemporanee e sono prodotte dai Sonic Youth, maggior marchio di garanzia per anche la colonna sonora legata allora a questo I'm Not There. E su questa sviolinata dedicata a Bob Dylan non vedo allora perché non andare a gustarci insieme una bella Hurricane for two. Ciao cowboy elettrici, questa è Pane, Burro e Rock and Roll on the Road. Pistol shots ring out in a barroom night, into Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood, cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done, put in a prison cell. But one time he could have been the champion of the world. Three bodies lying there, there's Patty. up and bellow. You don't want to have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want up in this triple murder. On him, he ain't no gentleman jail. Reuben could take a man out with just one punch, but he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, I do it for pay. And when it's over, just as soon go on my way. Up to some paradise, where the trout streams flow and the air is nice. And ride a horse along the trail. But then they took him to the jailhouse, where they tried to turn a man. Were marked in advance. The trial was a pig circus. He never had a chance. The judge made Reuben's witnesses drunkards from the slums. To the white folks who watched, he was a revolutionary bum. And to the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed. And the old white jury agreed. Falsely tried. The crime was murder one. Guess who testified? Bellow and Bradley, and they both bawled they lied. The newspapers, they all went along for the ride. How can the life of such a man be in the palm of some fool's hand? To see him obviously framed couldn't help but make me feel ashamed. Allora, tributato anche a Rock FM, come è giusto che sia, il menestrello Bob Dylan, gustato con questo uragano. Mi stava venendo urricano, ma sarebbe stata una traduzione decisamente errata. L'uragano Hurricane Part 2 alle 7:53 minuti primi. Uragano un po' com'è la colazione di Rock FM. E come sono spesso e volentieri i vostri messaggi riguardo all'intervento di cartoline provenienti dall'estero, ci precisano, guardate, che la Valvalis dovrebbe essere il cantone del Vallese, quello di Saas-Fee, che è una delle valli svizzere del Monte Rosa. Oh ragazzi, più precisi di voi come al solito non c'è nessuno. Chiederei a un altro amico, che terrei anonimo per il tuo bene, caro radioascoltatore, non vorrei che poi gli altri si facessero una brutta impressione di te. Chiederei se gentilmente puoi smetterla di scrivere questi messaggi. Ti prometto, se vuoi, perché gliel'ho letto a Frick, cioè gli è venuto un coccolone, ti prometto che chiedo a Frick di non fare certe battute, se vuoi, ma scriverci via SMS chi è il cantante che fa i rodei, risposta Legabue, ce la risparmiamo volentieri. Servizio a favore del radioascoltatore. Il ritardatario ritardato. Non frapponete alcuna remora morale tra il problema e la sua soluzione. La scusa di oggi, interpreta il maestro di giustificazioni Roberto Fricantoni. Direttore, io non ho parole, io sono veramente imbarazzato per il ritardo di oggi, ma vede, non è tutta colpa mia, la prego di credermi. Vede che ho comprato questo orologio in Giappone, lei sa che io ho avuto le ferie il mese scorso e non riesco ancora a cambiare fuso orario. Se lei volesse dare un'occhiata cortesemente, vede, è un Cinetic, sì, io ancora ho il fuso orario del Giappone. E per questo sono venuto nel pomeriggio. Le chiedo scusa e le assicuro che non accadrà mai più. Alla mia parola d'onore. Il ritardatario ritardato. Non dimenticate, Una buona scusa è quello che ci vuole per qualsiasi ritardo doloso. È un servizio a favore del radioascoltatore offerto da Rock FM. Mai più, never more. E beh, che c'è? Times are strange. Here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. I could be right, I could be wrong. It hurts so bad, it's been so long. Mama, I'm coming home. Selfish love, yeah, we're both alone. Ozzy Osbourne e la sua Mama I'm Coming Home, che ha un suo fascino anche a quest'ora della giornata, no? Vorrei dedicarla a coloro che stanno tornando a casa adesso, magari da una notte brava. Ci sarà qualcuno? C'è sicuramente qualcuno, lo so, conoscendo i radioascoltatori e le radioascoltatrici di Rock FM. C'è certamente qualcuno che se le sta tornando a casa adesso. Oppure Mama I'm Coming Home, in una lettura decisamente un po' più ampia, potrebbe essere anche coloro che stanno andando in ufficio, no? Se riuscite a parafrasare che l'ufficio è la mamma, però è un po' inquietante come cosa, quindi lascerei stare. Pochi secondi alle 8 spaccate, quando anche quest'oggi vi sveglieremo con Here Comes the Sun, the Fab Four. Ci sono dei posti dove ti senti subito a casa. Rock FM. Dei posti dove tutti i piaceri della vita hanno un sapore unico. Pane, burro e rock and roll. Rock FM. Per darti un po' di festa tutti i giorni.